Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. È un periodo in cui si parla molto di diritto e orgoglio di manifestare le proprie inclinazioni passionali, amorose o anche di preferenze sessuali. Grazie a Dio questa è una grande libertà, nessuno si deve più nascondere, anzi si può anche tranquillamente ostentare il proprio vezzo di appartenere a una categoria estetica indefinita che non necessariamente ha il bisogno di dare una connotazione di genere così precisa. Alcune signore, e in particolare quella che di fronte a me sta animando lo scompartimento, hanno la predilezione di uscire con uomini che hanno questo tipo di fantastica maniera di mostrarsi molto colorati, molto eclettici, molto attenti allo stile, alla cura del corpo. Insomma, una signora che esce volentieri con i fantastici e fantomatici amici gay che ogni persona omofoba dice di avere nel corredo delle sue amicizie personalissime e amatissime. Lei viaggia sola, quindi viaggia sola, non ha bisogno di compagni, non cerca compagni. No, è autosufficiente. Sì, viaggio molto con moltissimi amici gay, dunque questo è un po' il mio mondo. È quella che a Roma dicono una frociarola, a Roma le chiamano così. Quelle che vanno solo, escono solo con amici gay. In inglese si dice una fag. Però cos'è? Ecco, diciamo, uscire con persone gay vuol dire uscire con persone che non mettono una donna in impegno dal punto di vista della relazione. Possono essere degli ottimi amici, simpatici, divertenti, danno consigli, confidano, però non ti mettono mai a cimento sul fatto che puoi averci una relazione. No, però mettono molta qualità nel rapporto, che con un uomo ormai è diventato, diciamo, un uomo eterosessuale. Poi adesso si potrebbe anche parlare di tipi metropolitani milanesi borghesi milanesi ingessati, noiosi, invecchiati prematuramente. Quindi è meglio uscire con un uomo gay che con un uomo farlocco alla fine. Assolutamente sì, anche perché io sono, sono architetto e dunque ho una forma di progettualità, di creatività nel mio lavoro, ma anche in quello che faccio, e lì si trovano uomini di qualità, sono all'80%, posso dire, uomini di qualità, uomini divertenti, uomini che hanno voglia di vivere, di divertirsi. Quindi c'è anche un po' di cemento armato nei suoi progetti, non è che c'è soltanto sovrastruttura? No, certo, c'è del cemento armato, magari no, ma comunque sì, ci sono. C'è un'idea comunque di un luoghi, di spazi fisici, che è comunque molto importante. L'architetto, lei ama molto le metafore, ma alla fine qualche uomo come si deve lo incontra oppure no? Beh, uno l'ha accompagnato in aeroporto l'altro giorno, è un giovane senegalese che è tornato a casa sua. E quindi lei va a pescare tra le maestranze, diciamoci la verità. Ma maestranze magari in questo caso no, però sì, personaggi un po' off. Sono i migliori, ecco. Mette fuori. Ma diciamo che hanno comunque un entusiasmo per la vita che l'occidentale, soprattutto l'italiano, devo dire l'italiano del nord, chiamiamoli così, l'italiano del nord non ha assolutamente, non ha più. E il giovane senegalese era entusiasta? Ma lui sì, assolutamente, infatti sta facendo una cosa che non fa nessuno, cioè tornare tornare a casa sua per cercare di farci qualche cosa di interessante, di intelligente. No? Cos'è, architetto anche lui? No, lui è un ex professore di matematica, spinto in Italia dalla famiglia, perché comunque è chiaro che in quei paesi lì si vive di rimesse, cioè spinto all'immigrazione, è totalmente scoraggiato. Come dice lui, è molto più facile venire in Italia che tornare in Senegal. Ah, me lo immagino, chiaro. Sociale, dal punto di vista sociale e dal punto di vista familiare. Ma qui era riuscito a costruire qualcosa? No, ovviamente, cioè faceva il... Ma no, è impossibile, come si fa a costruire qualche cosa qui? E cosa faceva? Come viveva? Faceva il concierge, perché comunque parlava francese, inglese, italiano, era come si dice... Io mi scuso, ma io non sono italiano. No, ma usa molto. Ogni tanto... Sì, ma usa molto negli alberghi milanesi, adesso anche a Roma, di mettere giovani senegalesi al ricevimento, che sono molto, molto, molto, molto rappresentativi, parlano bene le lingue, sono educatissimi, ottima presenza. Li vedo a Roma, li vestono con il frac, con la livrea, però hanno comunque un'estrema dignità in questo tipo di lavoro e no, professionalità. Assolutamente, che chiaramente non porta... Non, certo, lui è un matematico, avrebbe potuto fare chissà quante altre cose. Assolutamente, ma è molto molto difficile, perché comunque qui vivono in una forma, diciamo, di piccolo ghetto, ma non lo sto dicendo. No, uno se li immagina subito, magari come venditore di borsette, non immagina che c'è dietro una laurea, una specializzazione. No, sono tanti laureati che fanno gli operai, che fanno altre cose, poi ci sono ovviamente i disperati che fanno anche. E con lui ha avuto una storia d'amore con questo giovane? È riuscito chiamiamola così. E perché chiamiamola? È successo qualche cosa. È una storia d'amore comunque, penso. No, sì, si chiama così. Assolutamente. Se l'ha accompagnato all'aeroporto, non si accompagna all'aeroporto un'avventura. No. Hai ragione. Non comunque lo so. Sì, l'ho anche aiutato a tornare. Se l'hai preso anche in casa, magari, un periodo. No, assolutamente, no. Ma lui era molto, molto indipendente, oltre che essere comunque, diciamo, impegnato là. Loro sono tutti... Lì aveva moglie e figli. Moglie, figli, eccetera. Dunque era una storia abbastanza estemporanea. E lei lo vedeva come un ragazzo, però, vero? Cioè, lì magari era un padre di famiglia. No, lui è comunque un uomo di 42 anni, dunque non era per niente un ragazzino. I'll be the gypsy on a path through the trees. The deal maker with front row seats, who turns from the armchair and the picket line, I'll be your woman. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. C'era un ragazzo, perché aveva una freschezza, una bellezza, un sorriso che fa pensare comunque alla... Sì, ha una bellezza giovane, ha un qualche cosa di... Certo, adesso sarà ben difficile ritornare indietro, riaccontentarsi del flaccido bianchiccio professionista milanese. No, ma io sto anche bene da sola, non sto cercando un uomo, assolutamente. Ma vabbè, mica uno detto lo cerca per la vita. Molto gentile per la sua preoccupazione. No, dico, dal punto di vista della valutazione del genere maschile, non dico... Ah, sì, non lo so, ma è già così da un po', è già un po' di anni che purtroppo questa valutazione c'è ed è purtroppo molta poca l'attrattiva ormai verso questi uomini così poco naturali, poco... vabbè, io vivo a Milano, che è una città che dal punto di vista maschile veramente è un momento di crisi. È un momento di crisi. Ma non so se è un momento di crisi, è che gli uomini della mia età, io ho 60 anni, uomini della mia età... Anch'io ho 60 anni. Davvero? Certo. Pensavo di meno. Molto figo. I uomini, i sessantenni milanesi, diciamo di un certo ceto sociale, sono veramente tremendi, ma non tanto fisicamente, quanto hanno un atteggiamento comunque molto traditional, molto noiosi, molto, sì, anche impostato, cioè sono poco naturali, sono poco gioiosi, poco, sembra le macchiette delle commedie all'italiana, dei film che si vanno, che sono, sì, tristi di Natale, ecco, tristissimi, sono tristi anche se hanno un sacco di soldi. Beh, hanno tutto, sono tristi, sì. Poi mancano totalmente di spontaneità, di naturalezza. A una certa età gli viene questo specie di maschera, no? Di non so come dire. Eh beh, di... che devono rimanere abbarbicate allo status che tanto gli è costato conquistarsi. Sì, forse sì. E alla fine si ritrovano sempre con delle donne che anche a volte è difficile definire, ma c'è questo tipo di donna sempre milanese, borghese. Stronze al pari loro, è il termine più semplice. Magre. Vestite di nero? Ma no, vestite di nero, non lo so. Sempre, milanese vestite. Sempre eleganti, con gli orecchini. Con le gambe lucide, tutte lucidate, non so perché. È vero, perché? Ma perché le milanesi si lucidano le gambe? Io questo non lo sapevo. Si danno io il coppale alle gambe, le vede per strada, non mettono le calze nemmeno 30 sotto zero, e hanno le gambe lucide, sembra che danno la vernicetta coppale, non so come mai. Ma non ho notato. Non sono mai fatto caso a questo. Hanno i polpacci da palestra, che passano la vita in palestra, sempre abbronzate e lucide, beatelo. La naturalezza non è femminilità, guai, le donne naturali sono noiosissime. Okay. Va bene, buon viaggio, spero che il viaggio grazie abbia un buon esito. A presto. A presto. Sono incuriosito da tutte le volte in cui con il mio treno passo sopra un ponticello e sotto scorre un fiume. Nella tratta Roma-Milano che faccio spesso, c'è il Tevere, c'è l'Aniene, ci sono vari corsi d'acqua, e capita di gettare un occhio tra quelle acque procellose, molte volte semplici, molte volte inesistenti nei periodi di secca, e verrebbe quasi la tentazione di vederci qualche bagnante o di vedere il baluginio della coda di una sirena. Le sirene professioniste sono una categoria di lavoratrici a tutti gli effetti. Anzi, sarebbe ora che la società indifferente degli umani dotati di gambe sia informata di quanto possa essere usurante il loro lavoro. Si sta formando una coscienza sindacale anche per questa professione emergente negli Stati Uniti. Sarebbero oltre un migliaio, compresi i tritoni, a guadagnarsi lo stipendio trasformandosi per metà in pesce. È una forza lavoro per lo più impiegata come attrazione principale dei cosiddetti dive bar, nome giocato sull'ambiguità del termine dive, che può definire sia l'immersione quanto l'alone sordido di un locale. Fare la sirena apre un variegato spettro di prospettive professionali. L'impegno più prestigioso è naturalmente galleggiare nei mega acquari di 12 metri e riempiti con 7500 litri d'acqua salata. Si può pure arrotondare partecipando a feste a sorpresa in piscina e compleanni per bambini. Nei dive bar è tutto più impegnativo. Il set pseudomarino va condiviso con altri pesci veri, finte barriere coralline, vegetazioni varie, e dovrebbe ricostruire il set ideale in cui galleggia Ariel, sirenetta della Disney e personaggio chiave di performance rieducative tipo pettinarsi la chioma fluttuante con la forchetta sbilenca. Non è certo uno scherzo, soprattutto perché il nuoto della sirena è tutto un gran lavoro di addominali. La coda che deve indossare può pesare fino a 35 kg e per non riaffiorare a galla dall'acqua salata deve tenersi un'ulteriore zavorra tra le gambe. Non a caso si stanno diffondendo corsi specializzati in Mermaid Fitness, dove sia mamme che bambine possono imparare a praticare una sorta di acqua gym con la coda di gomma addosso per poi muoversi in acqua come sirenette. L'inchiesta di Fast Company riferisce che la principale ditta che produce la guaina con coda pisciforme ne venderebbe 50.000 in un mese. Sono proprio tante, ma soprattutto è un numero elevato rispetto al migliaio di professioniste stabili. Forse è l'indicatore di un trend ben più esteso in uso familiare amatoriale, su cui forse non si è fatta ancora abbastanza luce. A parte un possibile uso sportivo, che se ne faccia la gente tra le mura domestiche di una coda da sirena indossabile è un tema che si presta naturalmente alle più indicibili supposizioni. Ormai ho l'occhio allenato e intuisco che il viaggiatore in treno è soltanto sporadicamente ospite del sedile che mi sta di fronte, abituato a viaggiare in ogni tipo di mezzo, soprattutto immagino in dei cargos che battano bandiera liberiana, o in navi da negriero, o in pericolosissimi aerei a elica, o in sottomarini, o a cavallo di un siluro. Insomma, si vede che è un uomo che ha girato il mondo e ne porta i segni indelebili nelle profonde tracce e che gli solcano le guance e la fronte. Mi sembra di capire che lei è una persona che ha viaggiato molto. Sì, ho viaggiato molto perché ho lavorato tanto per delle industrie, più che industrie multinazionali. Io importavo la faesite, che è quel trucciolato che poi hanno vietato in tutto il mondo, che lo portavo in Italia, facevano i rivestimenti di compensato, solo che poi c'era dentro additivi chimici, c'era un sacco di... Quindi diciamo è proibita la faesite, cioè i mobili che uno fa... È proibita da tanti anni e poi sono... Quindi quei bei mobili impiallicciati non bisognerebbe tenerli in casa? No, perché praticamente c'è il... come si chiama? Devo dire che è un bel problema, perché erano i mobili che permettevano alle famiglie di avere dei mobili... Sì, perché abbassava talmente i costi, e poi si faceva panforte da 9 mm, 3 mm, 12 mm, flessibile, resistente, sostituisce quasi la plastica, solo che poi c'era tanto additivo chimico per incollare il trucciolato e tutto il resto che alla fine diventava, come si chiama? Era velenoso, era? Sì, era esattamente tossico. Pensi che molti nelle campagne, quando i mobili erano distrutti, ci facevano il fuoco. Sì, facevano anche l'ondulato per i tetti. L'Eternit, c'era dentro l'amianto. L'Eternit, ecco, era mescolato con l'Eternit. Ah, pensi un po', c'era l'amianto dentro, quindi. L'amianto dentro e anche peggio. Poi di lì importavo la melassa, importavo tante cose in Europa. E la melassa cosa serviva? La melassa serve all'industria alimentare per le marmellate, no? La maggioranza è melassa, poi è frutta. C'è a Francoforte, c'è la fiera internazionale, si vende sta melassa che poi viene estratta dalla papaya, dal mango, da tutti i frutti tropicali, anche lì a rischio perché non sono coltivati, quindi è roba che è contaminata dagli animali, specialmente dalle scimmie, da tutte queste cose qua. In modo, poi sempre dal Brasile portavo la cola, che è una noce anfetaminica che va sempre per l'industria alimentare, soprattutto per il cioccolato. Poi la... Che vuol dire una noce anfetaminica? Quindi uno se la mangia si stravolge? Sì, ma quella è naturale, proprio è come la cocaina, il betelle, è un frutto naturale. È una noce, nasce anche in Kenya, che da Mombasa partono navi intere di questi prodotti. Quindi ha maneggiato sempre sostanze pericolose? Purtroppo sì, ne ho pagato anche le conseguenze, perché ho preso poi la legionella proprio da intossicazioni di questi tipi. Poi importavamo dall'Argentina, esportavamo soprattutto la colla di pesce e la farina alimentare di pesce, che poi è stato lì anche uno scandalo, perché andava all'industria alimentare e non andava bene per i bovini e per tutto il resto. Insomma, poi ho trattato in Indonesia i capelli di animali, tutte queste cose qui che andavano all'industria del Kashmir. Poi ho trattato le placente animali e anche le placente umane che andavano, vendevamo. Ma le placente umane dove si comprano? E niente, addirittura in India c'è un mercato, come c'è gli scheletri umani che vanno... Ma c'è un giro di scheletri umani, dove si comprano quelli? In India? Li compra a Calcutta, New Delhi, Benares, vendono il morto per pagare gli induisti il funerale, e quindi dopo la cremazione uno recupera le ossa, queste donne qui le rimontano e vanno questi scheletri poi liofilizzati, insomma sterilizzati, vanno alle università, ai centri di studio, medicina, cose. Ah, quindi gli scheletri che usano per studiare anatomia? Adesso li fanno di plastica perché costa meno, però perché hanno proibito tante cose, perché poi anche... Ma lei come li trasportava gli scheletri umani? una confezione. E noi nei container, facevamo container da metro cubo, c'erano dentro. E in un container quanti scheletri c'erano? Più o meno. Ecco, noi mandavamo quelli da 9 metri cubi, quindi faccia 9 per 45 scatoloni, 50 su. Quindi c'era una bella richiesta di scheletri umani. Ce n'è, c'è ancora tutt'oggi, però sono cose che la plastica poi ha sopperito. Ad esempio, prima prendevano tanti prodotti da Manaus, che è una delle città fiorite nell'Amazzonia, poi anche lì il caucciù è stato sostituito dai microrganismi organici e certe cose non sono cadute in disuso, soprattutto perché il costo è bassissimo, però il trasporto è diventato costoso. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Adesso è chiuso tutto il commercio, lei cosa fa adesso? Adesso sono in pensione, dopo due infarti, me ne sto tranquillo a casa mia. Poi è stata una vita avventurosa comunque, no? È stata una vita avventurosa. Perché è tutto nato da caso. Io ho seguito un mio amico che era un chimico e è andato a Manaus e poi a Belém in Brasile e lo sai, andava a prendere le felci, quelle naturali, le liofilizzava e le spediva in tutta Europa, al mondo. Sono quelle felci che trova negli alberghi, d'ornamento, tutto. Ah, che sembrano finte, ma sono vere liofilizzate. Sì, perché basta un litro d'acqua all'anno e vivono. E questo qui, a Genova avevano fatto quando si faceva la fiera dell'Euroflora, imperavano. Sono tutte piante, praticamente sono cadaveri vegetali, ecco. Ah, vabbè, dagli scheletri ai cadaveri vegetali, quindi sì, ma rimane nella stessa categoria merceologica praticamente. Sì, ma tutto, ad esempio c'è il sangue essiccato che di nuovo è vietato, che andava di nuovo all'industria alimentare, specialmente il sangue essiccato. E cosa ci si faceva col sangue? Ma sangue di animali? Sangue di animale, purtroppo l'ha messo, si ricorda lo scandalo Poggiolino, no? Sì. Pensi da arrivava, davano un dollaro per il sangue, mezzo litro di sangue agli indios, dico delle cose pazzesche ho visto. Ma in questo caso era sangue umano però? No, è sangue animale, lo fanno passare per umano, perché c'è una sterilizzazione di diodi elettronici che quindi compensa i globuli rossi e i globuli bianchi. Lo scandalo è stato quello che costava niente, veniva importato dalla farmaceutica. L'unica cosa interessante. Ma cosa ci fanno col sangue poi? Cosa ci si ritira fuori dei prodotti farmaceutici? Cosa ci si fa col sangue? Ci fanno di tutto, dall'alimentazione a sempre i mangimi, sia per fertilizzante e mangimi alimentari, che difatti poi è scoppiato lo scandalo perché questi animali insomma avevano degli scompensi. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Però nel frattempo avevo trovato un filone che è interessantissimo, che importavo il capoc, che è una specie di caruba, un albero naturale che nasce nelle Filippine, specialmente in Asia, in Indonesia c'è pieno, dove la caruba viene sempre usata per alimentazione animale o per alimentazione. Insomma, nelle merendine dei bambini c'è quella roba lì. Però dentro è un vegetale che ha una fibra che si chiama capoc, che antiallergica soprattutto, e viene fatta per le gare di sterilizzazione, per ad esempio intervento sugli ustionati. È naturale, questo prodotto è uno dei più costosi che esiste, perché per farne dei metri cubi, delle tonnellate, bisogna comprare delle piantagioni, che anche lì tutto il mondo è controllato da... Ma quindi le è passato sotto gli occhi di tutto, le sarà passato in questi anni? Ma guardi, di tutto e di più. Ad esempio, io non uso i dadi, perché ho visto cosa arriva dall'Africa soprattutto. Cioè il concentrato di carne per il brodo, quello dice lei? Non è carne, sono ossa, caro amico. Cioè come sono fatti i dadi? Ossa frantumate e fanno la polvere che poi viene fatta al dado. Orribile. E le ossa da dove vengono? Di animali chissà da dove? Appunto, scimmie, canguri, di tutto, tutto quello che è vertebrato. Si immagini, è una puzza terrificante. E lei ha importato anche quello? Ha importato anche ossa da dado? Ma perché io ero fiduciario, quando vado in un posto mi piace stare, io non mi mescolo mai con gli stranieri, col turismo, vivo nei villaggi, mangio quello che... cerco di capire... una frase che di un libro di Bevi l'acqua, che dice: in un mondo dove si contempla un'altra religione, un'altra morale, stessi vizi e stesse truffe, ecco. E vede oggi cosa succede nell'industria automobilistica, non c'è più ormai, Einstein diceva che ci sono due cose infinite al mondo, no? L'universo e la stupidità umana. E l'uomo, per farne profitto, l'unico essere vivente che uccide il suo simile non per necessità, ecco, e quindi... Ma le è capitato anche di vedere, diciamo, commerci al di là della legalità? Sì, illegali totalmente. Difatti ritorna questo mio amico delle Felci, che era un chimico e il miglior perito che ho trovato, appunto, parlando di alcaloidi, stupefacenti, cocaina. Anche lì tutti gli scarti della cocaina vanno a Atlanta e vanno assieme alle alghe. E che ci fanno? Le sigarette, c'è dentro dell'oppiaceo. Ah, ci sono gli oppiacei nelle sigarette, per questo piace. Sì. Pensi che io ho conosciuto un ingegnere sudafricano che è diventato miliardario come un ingegnere della Fiat. L'ingegnere della Fiat perché quando ha fatto la Panda ha messo due targi cristalli, quindi la Fiat ne ha risparmiato uno. E quando fanno la cocaina, che io sentivo la sua trasmissione che aveva intervistato un professore interessantissimo, latifondismo, guerra e guerriglia, è inutile dire diamo il 40% semina patate, perché questi non lo faranno mai. Fanno addirittura i mattoni con la cocaina per esportarli, hai capito? Nei laterizi. Vede delle cose, vede che oggi lo sconvolgimento dell'industria, si fa le mozzarelle in Germania con la polvere di uovo e di latte, però lei deve capire, ad esempio non mangi mai i canditi dei panettoni o quella roba lì. Perché? Con cosa sono fatti? E tutte le zucche marce che trovano, diventano canditi. Arrivano dagli autotreni che perdono i liquami per strada a Cremona, quei posti lì. Mamma mia. Adesso la cosa è migliorata, però migliorata, glielo dico spassionatamente tra virgolette. Ad esempio c'è un mercato immenso delle meduse. E che ci si fa con le meduse? Le meduse in Asia fanno gli spaghetti, i nasi goreng famosi. Non bruciano come quando no? No, sono quelle giganti che ci sono soprattutto dal Senegal, su Dakar, le isole del sale, fanno delle mattanze di queste alghe, di queste meduse qua. E tornando alla cocaina, io l'ho conosciuta attraverso questo mio amico chimico, e che gli esami li faceva un cagnolino, che i coquero sanno tutti un cagnolino che fino da... lo svezzano dandogli un po' di coca, di quella buona però, e questo qui se le dà qualcosa di tagliato o mal tagliato, che glielo fanno apposta, la scarta, non la prende mica. La purezza della cocaina la scoprono con un cane? La cocaina è un vegetale, sa benissimo, è una pianta, la foglia assomiglia a un oleandro, e viene macerata. Pensi che il Perù, sa che è l'unico posto dove cambia il nome della Coca-Cola, il Perù, si chiama Perucola. Perché? Perché sennò è assimilabile troppo alla Coca-Cola. Lì c'è la bolla, c'è una tradizione, fanno le torte, fanno tutto, e anche la famosa tè. Però viene macerata nel cherosene oppure nel GP1, che sarebbe la benzina degli aerei, delle Formule 1, e poi fa degli scarti, diventa una poltiglia macerata, puzzolente, che sa di urina di gatto fortissimo, lascia le scorie, e le scorie non vengono buttate via perché vengono tenute, tagliate, fatte un sacco di cose. Poi fanno dei pani da un chilo, li fasciano e lasciano al sole. Quando lei lo spezza, è come ha presente quel formaggio meraviglioso che abbiamo in Piemonte, il Castelmagno? Sì, certo. Ecco, ha quell'odore lì. Dentro cosa fa? Come il formaggio, come lascia la bola, sarebbe un vuoto d'aria, no? Sì. Lì si chiama madre blanca, sarebbe la cocaina più pura, e bisogna tagliarla. Però se la taglia un chimico come si deve, la cosa diventa tollerabile. Difatti un boss che io ho conosciuto, grossissimo, mi diceva, le diceva, ma perché a Milano, a Palermo, a Berlino muoiono? Perché qualunque cosa lei si inietta o fuma è deleteria, perché il fumo in 7-8 secondi va nel sangue, come l'alcol. Quindi sniffarla, difatti loro la tagliano con... proprio quando è buona con il buona, insomma, non faccio propaganda alla cocaina. No, buona nel senso di qualità. Con l'acqua distillata, capito? Beh, questa allora è per i ricchi, sarà. Sì, no, guardi, pensi, costava $5 nel 74 quando ero in Brasile io. Al grammo, si figuri i profitti che ne fanno. Lei se n'è fatta un sacco, però, mi sa. No, se n'è fatta un sacco via via. Troppa, ne ho fatto talmente tanta che alla fine sono tutte leggende che la coca dà, non dà sue fazioni se fatta bene, perché a me mi hanno insegnato come si fa, bisogna, è come bere un bicchiere di whisky, poi fare dei piccoli cicchetti, invece la gente fa il contrario e allora diventa deleteria. Poi non è che sia un incentivo sessuale, anzi per l'uomo è negativo. Le donne a Bogotà se la danno sul proprio sesso, perché così faranno più rapporti e non sentono niente. Ah, però quando finisce l'effetto, fanno anche per disinfettante, perché se lei ha un mal di denti, un po' di coca buona, pulita, quello che intendo io quando dico buona, è un chiodo di garofano, il dentista se lo scorda. Vabbè, poi uno fa prima andare in farmacia. Perde i denti, però. E vabbè, che bello, uno va in farmacia, si fa dare un analgesico qualsiasi, risponde. Sa, le farmacie. Se lei prende un indios, può attraversare l'Amazzonia a piedi, perché lui conosce gli odori, sa, si muove. Se ci va da solo muore, e anche loro hanno questa cultura sullo stupefacente, ci sono nati da 2000 anni, conoscevano il pomodoro come la patata, siamo noi che abbiamo imparato dopo, e quando è entrata la chimica tipo eroina di Hitler e tutto il resto, ecco che il disastro è fatto, il crack e tutto questo, che poi sono tutti scarti del vegetale buono, capito? Perché il vegetale, addirittura quando ha un tempo, manualmente gli indios la fibra, cioè il telaio della foglia, lo tengono e lo fumano. È una specie, sa che si dice in francese le veuve cliquot, il seocine fleuri, il papavero è anche un fiore, però il papavero può diventare un oppiaceo terribile, eh? Certo. Beh, si è fatta una bella cultura. Adesso però starà un po' più calmino, penso, no? Nell'uso di queste sostanze. Attività. Sì, va bene, ormai sono solo ricordi che ne parlo così, perché prima avevo un veto di segretezza, certe cose non si potevano dire. Adesso può dire qualunque cosa. Sì, ormai ho quasi 70 anni, dottore. La mia vita l'ho fatta, vivo di... mi piace. A presto, buon viaggio. Anche a lei. Alla prossima. Buon proseguimento. treno va. E ci risiamo sulla solita audiolettera che ormai mi arriva immancabile e con grande richiesta di attenzione e di pertinenza, che ormai posso dire di aver accumulato in tante ore e ore di viaggio in treno e tante audiolettere lette, commentate, interpretate, millantate. Beh, questa signora parte dal solito attacco di donna ormai delusa dal genere maschile, che va qua e là bazzicando le aree di interconnessione elettronica per vedere se ancora lì ci fosse qualche residuo umano di genere maschile degno di una piccola e seppur minima, pur in fase terminale, attenzione. Caro Gianluca, ti scrivo perché mi sono riconosciuta in una di quelle eterne adolescenti di cui hai parlato venerdì scorso a Melog con Susanna Schimperna. Per eterna adolescente non intendo un'ingenua spensierata 45enne che insegue il principe azzurro. Al contrario, mi sento da qualche anno pienamente e responsabilmente spensierata quando voglio e con chi voglio, proprio nella consapevolezza che del principe azzurro non me ne frega veramente più niente. Sono una donna che ha passato i fatidici anta da qualche anno. Ho riscoperto dopo la separazione il piacere di essere donna e in questo senso sto vivendo una seconda giovinezza fatta di curiosità ed esplorazioni che solo pochi anni fa per me erano impensabili, costretta in quel ruolo di brava mogliettina e mamma accudente. Per carità, non sono nel frattempo diventata una pantera cacciatrice di uomini, tutt'altro. Ho un lavoro, una figlia che fa l'università e penso di essere una buona madre. La differenza sostanziale con la mia me del passato sta indubbiamente nel fatto che ho ricominciato ad uscire, ad andare a ballare, a frequentare amiche con cui ci divertiamo anche quando gli uomini in cui ci imbattiamo risultano essere decisamente improponibili. Finché il fisico regge, non ci voglio rinunciare. Detto questo, la vicenda che mi è capitata è talmente bizzarra che sembra finta. Ovviamente sono disposta a raccontartela solo mantenendo il mio anonimato. Come tanti, ho una mia vita relazionale che si svolge nei social network, in particolare Facebook. Per lo più mi tengo alla larga dagli uomini che non hanno un legame diretto con i miei contatti. Ma un mese fa mi scrive un amico di una mia amica che mi ha commentato con una certa originalità una foto che avevo postato. Era il dettaglio del mio piede colto mentre mi provavo scarpe nuove in un negozio. La scelta della foto non aveva particolare intento seduttivo, anche se so che in passato ho avuto diversi apprezzamenti per i miei piedi, cosa che non manca mai di farmi sorridere. Sì, mi rendo conto che oramai una parafilia che una volta era riservata a dei raffinatissimi intenditori che potevano lambire i margini più estremi della trasgressione, forti della loro appartenenza a un genere di esteti, sia diventato di dominio comune. I maniaci dei piedi, gli appassionati dei piedi, gli adoratori dei piedi ormai sono ovunque e ci sono riviste specializzate, siti specializzati, ma devo dire che ormai anche signore e signorine consapevoli del fascino che può avere anche l'estremità inferiore mostrano e ostentano anche nei luoghi di presentazione del proprio fascino, che poi sono Facebook soprattutto o le aree di interconnessione più riservate, i loro piedi perfettamente pittati, egregiamente curati. E anche in questo caso, naturalmente, siccome l'offerta incrementa la domanda, la nostra amica ha trovato un amatore per i propri piedi. Sì, ma i piedi possono servire a tante cose, non soltanto ad essere amati e adorati. Questo cinquantenne mi scrive inizialmente delle cose divertenti e con un certo savoir-faire io gli rispondo senza dargli troppa corda. Per due o tre conversazioni ci siamo tenuti su temi classici o generici, anche se il mio intuito mi diceva che c'era qualcosa sotto. E infatti, dopo poco tempo, lui ha cominciato molto sottilmente a far virare la conversazione su temi sessuali. Solo poco tempo fa, alla prima allusione, avrei chiuso la conversazione. Invece questa volta mi sono detta: vediamo dove vuole arrivare. E sono stata al suo gioco di domande sempre più maliziose, anche se mai volgari. Eppure continuavo ad avere la netta sensazione che non fosse il solito rimorchiatore da chat. Alla fine mi chiede di uscire con lui. Tanto per curiosità gli dico che potevamo vederci, sì, ma non a casa. E lui mi ribatte che voleva andare al cinema con me. Non essendoci in quel periodo particolari film per me interessanti, gli dico che avrei preferito un'altra cosa. al che esce allo scoperto. Mi offre 300 euro per venire al cinema con me, ma non per fare quello che io avevo immaginato, no no, voleva che io vedessi l'intero film tenendo i miei piedi sopra la sua schiena. Sì, hai capito bene, voleva sentire i miei tacchi sulla sua schiena, con lui sdraiato per terra al cinema tra le file di poltrone. Per fortuna che non ha potuto sentire le mie risate dall'altra parte del monitor. Ho declinato però l'invito e gli ho fatto capire che non era cosa. Quando ho raccontato la vicenda a una mia cara amica mi ha detto: «Beh, perché non hai accettato? Magari ti piaceva». Ora che è passato qualche giorno ancora ci ripenso e mi chiedo: al di là dei 300 euro di cui non ho bisogno, perché ho detto no senza pensarci? Mi imbarazzava la situazione? Eppure devo ammettere che sicuramente lui ha colto in me una mia attitudine che per lo più nelle mie relazioni non metto in mostra. Secondo te allora, qual è il limite alle nostre esplorazioni in questo campo? Quando è che ci dobbiamo dire «no, questo non si può fare»? Forse ho perso un'occasione per trovare un nuovo piacere? Che devo dire, se hai il dubbio che aver evitato l'uomo tappetino che avresti dovuto calpestare con vigore sia per te la rinuncia di un nuovo piacere, il prossimo che ti si presenta vacci tranquilla, anzi mettiti degli anfibi d'alpino, mettiti dei scarponi chiodati da rocciatore, mettiti quello che puoi inventare per fargli più male possibile, lo farai felice e farai felice te stessa. Il problema non è tanto rinunciare a un'occasione in fondo di un buon guadagno, e poi parliamo di profitti al nero. Immagino che uno potrebbe andarsene al cinema 3-4 volte a settimana, tranquillamente vedersi il film, tranquillamente avere l'uomo tappetino steso fra i sedili e pulircisi le suole, dargli ogni tanto qualche calcetto nelle parti deboli o sulle orecchie o nella nuca e tornarsene a casa con 300 euro, 3x4, 12, uno stipendio medio, lo farebbe semplicemente guardando un film. Se vogliamo escludere naturalmente tutte le implicazioni di tipo etico, anche di banale sicurezza, perché siamo sicuri che poi l'uomo tappetino si accontenti di questo e non vada oltre, non si presenti una volta, non so, con dei ramponi da ghiaccio acuminati, dice calpestami con questo, e poi se uno gli fa veramente male, lo trafigge, gli crea delle lesioni irreversibili, beh, se ne comincia a rispondere anche penalmente. Sono giochi sempre molto pericolosi. Al cinema sembra tutto facile, sembra tutto bello, di solito chi si diletta in questo tipo di attività amatoria è sempre affascinante, iperdotato, di raffinatissima cultura, ma qua abbiamo a che fare con persone di cui non possiamo prevedere le reazioni. Quindi il consiglio è: se proprio ti va di prendere a calci qualcuno, prendi a calci un barattolo per strada o iscriviti a una squadra di calcetto femminile. Beautiful tango, take me by the hand. Beautiful tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance.